Una volta Sansone, che era andato a Timna, posò i suoi occhi in questa città su una giovane donna filistea. Tornò subito indietro per dire a suo padre e a sua madre: «Ho visto in Timna una giovane filistea e ora voglio che me la andiate a prendere in moglie». Suo padre e sua madre gli risposero: «Fra la tua gente e fra tutto il tuo popolo non ci sono forse donne perché tu vada a prenderti una moglie tra i filistei incirconcisi?» Ma Sansone rispose: «Prendimi quella, perché è lei che mi piace». Suo padre e sua madre non sapevano che ciò avveniva per volontà del Signore, il quale cercava un modo per provocare i filistei, che in quel tempo dominavano Israele. Sansone mosse dunque alla volta di Timna con suo padre e sua madre, e sostarono a Carme Timna. Ed ecco che un leone si fece incontro a Sansone, ruggendo. Questi, investito dallo spirito del Signore, senza aver nulla in mano, squartò in leone come si squarta un capretto. Però non raccontò la sua impresa né al padre né alla madre. Poi continuò il suo viaggio per incontrarsi con la donna che gli piacque ancora. Qualche giorno dopo, rifacendo di nuovo la strada per andare a sposarla, lasciò la strada per andare a vedere la carcassa del leone e trovò che, dentro, le api vi avevano fatto un favo pieno di miele. Trattolo fuori, si rimise in cammino, tenendolo in mano e mangiandolo. Raggiunti poi suo padre e sua madre, ne offrì anche a loro, che ne mangiarono, ma non raccontò loro che aveva preso quel miele nella carcassa del leone. Il padre di Sansone si presentò alla casa della donna, dove Sansone offrì un banchetto secondo l'usanza dei giovani. Quando la gente del posto lo vide, gli scelse una scorta d'onore di 30 compagni che stessero con lui. Sansone disse loro: «Voglio proporre un enigma. Se vi riuscirà di trovarne la soluzione e riportarmela nei 7 giorni del banchetto, io vi darò 30 tuniche e 30 bei vestiti, ma se non vi riuscirà di risolverlo, sarete voi a darmi 30 tuniche e 30 bei vestiti. Essi gli risposero: «Facci sentire il tuo enigma». Disse loro Sansone: «Da colui che mangia è venuto fuori cibo, dal forte è uscito qualcosa di dolce». In capo a 3 giorni non erano ancora riusciti a risolvere l'enigma. Al 4º giorno essi si rivolsero alla moglie di Sansone: «Seduci tuo marito perché ci dia lui la soluzione, altrimenti daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitato qua per derubarci?» Allora la moglie di Sansone si mise a piangere fra le sue braccia, diceva: «Però tu mi odi e non sei innamorato di me. Tu hai proposto un enigma a quelli della mia gente senza dire la soluzione neanche a me». Sansone le rispose: «Non l'ho detta neanche a mio padre e a mia madre, perché dovrei dirla a te?» Essa continuò a piangere fra le sue braccia per tutti e 7 i giorni che durò il banchetto, finché il 7º giorno Sansone, non resistendo più alle insistenze della donna, finì con lo svelarle la soluzione, che essa riferì subito alla sua gente. Così, il 7º giorno, prima che tramontasse il sole, gli uomini della città dissero a Sansone: «Che cosa è più dolce del miele e che cosa più forte del leone?» Rispose loro Sansone: «Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste risolto il mio enigma». Allora, investito dallo spirito del Signore, Sansone discese ad Ascalon, vi uccise 30 uomini, tolse loro le vesti che avevano e così poté dare le 30 vesti a coloro che avevano risolto l'enigma. Ma ormai, in preda allo sdegno, se ne tornò alla casa di suo padre. La moglie di Sansone fu data in sposa al suo paraninfo.